viaggio con Easy Riders. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? Ebbene sì, parlo, la voce di Mox, avete già sentito fuori onda praticamente un'altra voce, ma effettivamente ieri ve l'ho annunciata, una puntata in famiglia. Easy Rider, è giusto che lo sappiate, è sicuramente rappresentata dalla mia figura, cioè la persona che vi parla quotidianamente, però in realtà è stato anche un cast di amici, di persone che hanno collaborato con il loro apporto, e io voglio tornare a dare il benvenuto questa sera, che è venerdì 16 maggio, innanzitutto a Ivan, che per l'occasione è tornato a curare la parte tecnica di questo programma dopo tutto quasi un anno intero di programmazione al mio fianco per realizzare questo spettacolo via etere. E poi soprattutto voglio svelarvi che nelle migliaia di brani che avete ascoltato in questi ultimi mesi, insomma, non era tutta e solo esclusivamente farina del mio sacco, ma alle mie spalle c'erano anche delle figure di ricercatori che adesso vi presenterò, ed è giusto che dopo tanti mesi dietro le quinte anche oggi ci sia occasione per loro di far sentire direttamente le loro voci. Anzi, io lo farei subito, do il benvenuto a Filippo. Ebbene sì, è stata anche colpa mia. Esatto, e poi do il benvenuto anche per la prima volta a Sere. Ciao Sere. Ciao a tutti. Ecco, quindi siamo qui tutti in famiglia riuniti, siamo felici. Il criterio di questa sera sarà ascoltare un brano a testa e svelare anche quello che effettivamente queste persone hanno realizzato per Easy Rider, rendendolo un programma così di successo. Però consentitemi, Phil e Sere, io vorrei iniziare. Oggi è una data speciale, oggi è il 16 di maggio, è una data di tantissimi compleanni nel mondo dello show business. C'è Robert Fripp, che è uno dei miei idoli, è uno dei più grandi musicisti della storia secondo me, ma c'è anche un altro particolare che è italiano, che è Claudio Baglioni. Allora tutti fuori là si aspettano che io faccia ascoltare loro un brano di Baglioni, e effettivamente sarà così, però in un'altra veste, quindi svestiamo il brano dal suo autore originale e gli mettiamo un altro vestito, cioè una grande voce, una grande chitarra, un grandissimo arrangiatore. Lui collaborava con Lou Reed e David Bowie negli anni 70, realizzando proprio i migliori album della carriera di questi due artisti. Si chiamava Mick Ronson, purtroppo devo dire si chiamava perché è scomparso nel 94, E la canzone che vi faccio sentire, giusto per fare una puntata commemorativa, un best of, anche avvalendomi di questi due validissimi collaboratori, io scelgo di iniziare con The Empty Bed, il letto vuoto. In realtà altro non è che Io me ne andrei, canzone di Claudio Baglioni, reinterpretata da Mick Ronson. E allora Ivan, dalla regia, partiamo pure così. Face on the wall when it's only in a frame. It's not the same sleeping without you at night, not knowing if I will again. Magic mirror shines memories of yesterday. You wouldn't go and you couldn't stay, deceitfully blind to you wanting your way. Where will you go? Where will you stay? Where will you stay? You wouldn't say, you wouldn't say. To rest to your love, such a feeling left along with your case. It's such a fight, cause every window I pass keeps reflecting visions of your face. Like a spider's web, weaving me round and round again. Will it let go? Can I clear my head? There's a thousand things, not only the empty bed. Why did you go? Was it something I said? In my head, was I misled? I wish I was dead. Yeah. cigarette's gone out. It's late, no one's about. Guess I'll try, put you right out of my mind. Che meraviglia questo brano, ragazzi. Bello, eh? Ammettete bello. Che ha commosso anche voi, eh? Che dici? Sì, molto, molto bello. Infatti, no, bisogna dire una cosa. Le cover di Baglioni in generale non migliorano mai, a parte questa eccezione, cioè quella di Mick Ronson, che con il suo calore vocale, con la sua grande capacità non solo interpretativa ma anche arrangiamentale, insomma, ha conferito secondo me ulteriore valore a questo bellissimo brano del 73. Ricordiamo che Mick Ronson lo pubblica dopo aver pubblicato già un'altra cover di Lucio Battisti nel 75, e poi nel suo secondo album tributa a un altro grande della melodia italiana che oggi compie 57 anni, ed essendo un personaggio che in qualche modo sento vicino per molti aspetti artistici, allora mi sentivo di tributarlo nella maniera più rock possibile, quindi scomodando un grande della musica rock. Però ragazzi, adesso tocca a voi, perché si deve sapere, Easy Rider è un cast, è un gruppo di lavoro estemporaneo, c'è tutta una metodologia di lavoro simpaticissima, una intesa autorale tra me e le persone che sono qui al mio fianco, e oggi ho veramente l'onore e il piacere di ospitarle in questi studi e di farle conoscere anche a voi. Per conoscerle meglio potete scrivere al 335 100 7777, piuttosto che alla solita mail mox@radiorockfm.com, piuttosto che a mox@rockfamily.it. Dopo, insomma, con calma apriamo e leggiamo tutto. Allora, giù, insomma, di lamentela sul pezzo di l'amico Ago, che dice: ma basta, l'avrei fatta sentire 15 volte. Ha ragione. Senti, quando un pezzo è bello ha il diritto di essere in rotazione. Sto scherzando. Poi Baglioni in inglese secondo me rende anche di più. Sì, non so. È più simile al suo compare Peter Gabriel, per cui è vero, c'è questa attitudine meno. Vabbè, senti, toccherebbe a Serena. Allora vi spiego. Serena e Filippo sono complementari in questa. Io vi inquadro così, poi voi correggetemi se sbaglio, ditemi la vostra, sì. Entrate pure. Sono complementari in questa trasmissione perché ci sono io che vado un po' dappertutto, però loro hanno delle attitudini che sanno sviluppare bene. Allora, la cosa che li accomuna è la metodologia di lavoro, ossia l'utilizzo della rete, che adesso è praticamente obbligatorio per la ricerca. Quindi poi spiegherete voi che tipo di radio ascoltate, piuttosto del tipo di siti che frequentate per ottenere le informazioni relative alla vostra passione. Però entrambi sono grandi appassionati di musica rock, altrimenti non potrebbero essere qui. Filippo va nella direzione un po' più mox, perché è più verso il passato, quindi ricerca le radici, ricerca le origini. Invece Serena è fondamentale perché è sull'attualità, quindi per quanto anche lei abbia un background che deriva da fine anni 70, inizio anni 80, però riesce sempre a guardare avanti. A noi riesce un po' più difficile, sì, questa cosa. Io sono un po' più archeologo, diciamo, un po' come te, Mox. Esatto, facciamo una ricerca avanzata. Serena è più moderna. Serena guarda in avanti, infatti si aggiorna continuamente ascoltando radio americane, e ogni tanto mi fornisce dei pezzi che io poi trasmetto a voi e anche prima, voi. Prima mi critichi. Molto. Prima ti critico e poi però. Poi dopo 5-6 ascolti esatto, raggiungiamo degli accordi. Qualcosa passa. Allora, sappiate che ad Easy Rider avete ascoltato gruppi come, per fare nomi sparsi nel tempo, i Ten, piuttosto che i Symphony X, piuttosto che quelli che ascolteremo tra poco, gli Atom Ship, piuttosto che una band cristiana che si chiama Petra, insomma parecchi nomi che arrivano dall'archivio personale di Serena. Allora Serena, io ho scelto insieme a te un brano del tuo repertorio, poi spieghiamo anche come sei entrata in questo contesto, che quando l'ho passato un po' di mesi fa ha avuto un buon riscontro. E sono gli Atom Ship, giusto? Sì, Atom Ship. Dici qualcosa su questi Atom Ship, come li hai scoperti, di dove sono e soprattutto se sono... No, è una band americana del Mississippi, e loro sono una progressive band, e comunque niente, hanno fatto questo unico album nel 2004 che si chiama Crash of 47. E poi non sono stati distribuiti in Europa con io sono rimasta molto scioccata da questa cosa e infatti sì, l'ho subito voluto proporre a tutti perché è veramente un bellissimo disco secondo c'è me c'è un grande dispendio di gruppi fantastici in America che però non tutti hanno la stessa fortuna le stesse possibilità e quindi ci sono persone come lei. Beh, per esempio a me viene in mente Giulio Caperdoni, no? All'interno della famiglia di Rock FM, che è uno che ti propone sempre gruppi qua in Italia assolutamente sconosciuti. Però che a lui piace ricercare. E Serena in un certo senso fa la stessa cosa. Ha un orientamento decisamente più rock rispetto sì, a Giulio. Sì, sono progressi post-grunge, adesso non saprei ben definirsi. Esatto, quindi un incrocio. Assomigliano molto ai Tool, poi li sentirete ascoltandoli. Esatto. Secondo me hanno delle derivazioni. Dai allora, Tool. Lasciamo lo spazio alla musica e è proprio il nome che avrei speso anch'io, anzi che sicuramente a suo tempo ho speso come associazione più immediata nell'ascolto di questi Atomship. Allora, abbiamo detto, siamo nel 2004, il brano che Serena sceglie ad Easy Rider per noi oggi si intitola Mothra. The world. testa. Motra, questa era una gran bella figura, un gran bel inizio, direi, una scelta efficace che ha, secondo me, conferito lustro a Easy Rider, grazie. Grazie alla serie. Veramente bello, veramente bello. Un bel pezzo, sì. Effettivamente c'era, ecco, un nome famoso, quello dei Tool, è giusto dare dei riferimenti al pubblico, perché non essendo pubblicato in Italia, la gente deve cercarselo. Serie su MySpace, pensi che gli Atomship ci siano? Cioè, come facciamo a uno che vuole cercarseli, perché li sente a Sì, su MySpace si trova, chiaramente ci saranno solo quattro tracce dei elementi 3 e basta. Ok, però cioè, poi su Amazon te li puoi ordinare, no? Esatto, certo, esatto, prassi comune. Allora, prima di farvi raccontare quali sono le vostre metodologie lavorative, innanzitutto i primi saluti, voglio ringraziare chi scrive al 335 100 7777, prima di passare la parola a Filippo per il suo brano d'inizio, che anche lui ha un criterio questa sera. Fabrizio dice: qualcuno sa dirmi qual è stata la sorpresa di Easy Rider ieri sera? Guarda, chi meglio di me? La sorpresa è stato semplicemente un passaggio di un brano censurato del 1980 che mi è piaciuto molto riproporre e che ha giustamente suscitato degli entusiasmi. Un brano fortemente politicizzato, censurato non solo dalla classe politica ma anche da quella ecclesiastica, perché si intitolava Io se fossi Dio, usava la parola di Dio come metafora punitiva di una serie di situazioni, per cui il brano è un brano teatrale e ha suscitato giusta emozione. Ringrazio BC67 che mi manda una sua breve, positiva recensione del concerto di Tony Levin di ieri sera con il California Guitar Trio, grazie mille. Poi chi abbiamo? Abbiamo Ago che abbiamo salutato prima, e qualcun altro dice: comunque anche quella di Baglioni non è male, siamo noi che lo abbiamo preso male in pubertà e tanti sono esterofili. Poi avrei bisogno di salire, ma vabbè, gli altri li leggo dopo perché c'è un problema di tempo. Filippo, la parola a te. Primo sì. Pezzo e perché? Questo, ecco, io dico che a Easy Rider non l'ho mai passato, quindi è una tua scelta che è estemporanea. Sì, diciamo che per questa serata, Mox, alla fine ho deciso di aprire la mia discografia casalinga e praticamente di scegliere un brano a decade, per cui in ordine strettamente cronologico iniziamo con gli anni 60. Iniziamo con la fine degli anni 60, siamo a Londra, la macchina del tempo di Easy Rider ci porta a Londra nel 1969 e quello che stiamo per sentire era uscito come 45 giri di una band che si chiamava The Open Mind, la mente aperta. Ecco, e io già ti ringrazio della scelta perché sicuramente il brano è strepitoso, ma simboleggia molto bene il nome di questo gruppo, anche lo spirito di questo programma. Esatto, e tra l'altro il brano si chiama Magic Potion, pozione magica. Qual è il motivo dell'ascolto? È un brano da culto perché gli Open Mind sono stati i primi a trattare all'epoca il tema delle droghe, dei viaggi della mente, unendoli a una musicalità molto aggressiva. Cioè siamo passati praticamente dalla psichedelia un po' più pura, più dolce, più sognante, pop. Più pop di Lennon, di, per esempio dei Beatles, di Lucy in the Sky with Diamonds o dei Kaleidoscope, quelli inglesi, e invece arriviamo all'aggressività, alle chitarre abrasive, alla doppia cassa nel 1969 degli Open Mind. Esatto, che aveva pochi estimatori la doppia cassa, cioè Keith Moon sicuramente, piuttosto che Ginger Baker, però insomma non era così di moda. In un linguaggio poi dei tre minuti proprio garage rock and roll, insomma è una tarda psichedelia che anticipa l'arrivo dell'hard rock. Va bene, allora ascoltiamo il brano degli Open Mind, che è già un 1969 e si intitola Magic Potion. Oh.